Fratelli di settembre sul beat. E questi sono frammenti, ricordi del passato. E ricordo uno sgabello, le chiavi del portone, con i libri in mano, un magazzino di cartone. Rubavo i soldi con il batticuore nel portafogli di mio padre malfattore. Sono come un uomo privo della sua pelle, mi pungono gli spilli, le bretelle, favelle come spifferi, pestifero, sonniferi. E poi sigilli di una vita in cui non ho mai fatto scelte, come una spugna che assorbe tutto. Io sono empatico da solo su una barca in un cannetto nella notte, attendo il mio debutto, senza una torcia, fuligine all'asciutto. E quante volte ho pensato al suicidio, in quella torre con il senso di fastidio, tizzoni come incubi, sangue lividi, ma io sono un soldato di filo spinato, senza limiti a pizzichi e bocconi. Vivo un'altra levataccia, il bottone ai miei calzoni. E non mi dire tu hai il piede in due scarpe, è un doppio gioco, sono vuote le mie tasche. Ricordi di cenere, come una sindrome del mio malessere. Ricordi di cenere. Esonerato militare senza la paghetta, mio padre come Barbarossa entrava in cameretta, per terra solo cenere, una bacchetta, pensieri come vipere, veleno una provetta, mia madre che mi dava la mia prima sigaretta e scatole di medicine sulla finestra, cantavo come un gallo nel pollaio senza cresta e sul solaio maschere di cartapesta, io le costruivo con la colla pensando di volare come Icaro, cercavo una risposta, guardavo gli insetti poi fissavo le stelle tra la polvere di scopa con l'orgoglio di un ribelle, come una passione muta col mio senso di colpa. In un castello diroccato mi sentivo in una bolla, sai non bastava la mia costanza, carbonizzato in un vaso fantasma. Ricordi di cenere, come una sindrome del mio malessere. Ricordi di cenere. Se dobleo, basa, resta l'incocrio, unita sempre.